Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è un romano doc nato nel 1949. Dopo gli studi di sceneggiatura e di recitazione con Alessandro Fersen, inizia la sua carriera scrivendo per Felice Farina e Marco Colli. Negli anni 90 diventa aiuto regista di Matteo Garrone in Ospiti e Primo Amore. Con Garrone scrive anche Gomorra. Ma nel frattempo, a quasi 60 anni, si concede il debutto alla regia e con Pranzo di Ferragosto, irresistibile commedia sulla terza età, ottiene un clamoroso successo. A Venezia premio Luigi De Laurentiis per l'opera prima, poi David di Donatello e Nastro d'Argento come miglior regista esordiente. Nel 2011 il secondo film, Gianni e le donne. Lui è Gianni Di Gregorio. Allora, ti confesso che mi sono messo in gioco tanto, perché avevo paura del secondo film. Dopo un successo come quello ero terrorizzato. Allora il rischio è, o ti fermi, ti metti lì a riflettere. Quest'idea, l'idea di questo film, io ce l'avevo già in mente dopo l'altro film, ma era un po' così nebulosa, però ti giuro che l'ho fatto proprio perché ci ho creduto, perché in effetti lo sentivo abbastanza urgente come film. Non è molto costruito, non è una cosa molto costruita a tavolino, sì, poi c'è stata la sceneggiatura, c'è stato un lavoro di costruzione, però io è nato da, veramente da... l'atteggiamento di tutti i sessantenni, amici miei, anche dal mio, davanti al fatto che le donne non ti si fidano proprio più, cioè prima c'era il sorrisetto, cioè quella cosa, la signora sull'auto da lontano, no? Io me lo ricordo questa cosa, l'occhiatina, prima di scendere gli facevi l'occhiatina per vedere chissà se mi guarda, stupidaggini, però ti portavi a casa qualche cosa, era un pezzetto di sentimento, chiamiamolo come lo vogliamo. Adesso ti puoi dare fuoco proprio, non ti guardano più perché hai superato, capito, il limite. Sta cosa a me prima di preoccuparmi di stare male, ho detto facciamoci un film, facciamoci due risate su questa cosa. Adesso non lo so, come magari fra un anno starò malissimo lo stesso, però ti giuro che è molto sentito. Volevo ridere su questo panico, perché ti prende, il panico ti prende, poi ci devi fare i conti, poi puoi fare tutto, ma c'è un momento che ti senti proprio trasparente, cioè invisibile. Tu sei invisibile. Cristina, si può? Posso? Buongiorno. Buongiorno. Signor Gianni. Buongiorno. Che ci fa lei qua? Ma io mi sono permesso di portarle il caffè perché ieri sera ero ubriaco. E mi volevo far perdonare. Ma lo sai che l'ho sognata stanotte? Davvero? Sì. Era un sogno bellissimo. E... ah, non era tutto molto chiaro, era un po' strano. Ma poi ho capito molto bene. Lei era mio nonno. Ecco, grazie. Hai trovato l'equilibrio tra la poesia, ma anche il realismo. Guarda, la sceneggiatura era molto, molto potente. Quindi era molto, anche perché è un film più complesso, hai visto, dell'altro, molto più complesso. Quindi è stato un lavoro molto forte la sceneggiatura. Poi, come sempre, per incanto, quando tu c'hai poi gli attori, i personaggi che interpretano quella cosa, devi lasciare spazio a loro. Quindi anche lì, poi quando abbiamo girato, questo era il senso della scena, ma le parole le potevano anche inventare, certi tempi, certi ritmi di recitazione, io li ho lasciati tutti assolutamente liberi. La scelta del nome proprio è proprio per farli sentire a loro agio, ognuno ha il proprio nome, non c'è costruzione, e quindi è quanto più vicino al reale, perché a me interessa molto comunque, in qualche modo, non so se lo vogliamo chiamare naturalismo, però qualcosa che si avvicini moltissimo al reale, no? Che poi può diventare comico, come ti pare, però sempre nella realtà. E devo dire che io do molta libertà agli attori di interpretare l'arrabbiatura, la felicità o quello che vogliono nel loro modo. E può essere una sorpresa, eh? Gianni, voi. Alfo, Oh, ma sei sparito proprio, eh? Ti sei proprio imbaricato in casa. Non esci più. Malfò. Vedi, che vado a fare, il vecchio, per la strada? Ti ho trovato una bella cosettina per te, che risolviamo il problema. No, no, che è la droga, Malfò, io non la posso... No, guarda che non è... Non... Io, guarda, mi viene da vomitare, non è per un fatto di... Questa è la pasticca dell'amore, la prendi e sei pronto. Un'ora di tempo e vai. Hai capito? Malfò. Fidati di me, Gianni. Sì, ma... Io, e dove vado? Dove vado? Questo caldo, io ci penso. Carpe diem, lo devi fare subito già. No. Dammi retta, no, apri la bocca. No. Alfonso, non. Per favore, non Gianni, mi fai arrabbiare. Apri la bocca e chiudi gli occhi. No. Gianni, apri la bocca e chiudi gli occhi. No. Apri la bocca. No. Apri la bocca e chiudi gli occhi. Ecco qua. Tra le donne di Gianni ci sono la figlia e la mamma. Sì, la figlia, perché mia figlia, che è quella del film, mi ha torturato per anni con sto fidanzato, che si dovevano lasciare, non si lasciavano, siccome il fidanzato vive a casa mia ormai da anni. Quindi c'avevo prima lei, poi lui, insomma non ce la facevo più. E c'è ancora sta storia, ecco, è vivente la storia, tant'è che... Tra l'altro sto ragazzo, io gli voglio un bene dell'anima, se lo lascerà io starò malissimo, perché mio figlio maschio è il figlio maschio che non ho. Quindi lei, tra l'altro mia figlia non voleva recitare, lei studia, è un po' timida, però l'ha fatto, credo anche bene, perché ha fatto se stessa. La mamma è riemersa in maniera, io non la volevo così tanto, io volevo fare la mamma, però la mamma è diventata, perché la mamma evidentemente ce l'ho dentro, e ogni volta che faccio un film riesce sta mamma, io non lo so, anche se facessi il film dei pirati, viene fuori che uno, che quello c'ha la mamma, è una cosa mia proprio di... Che ti devo dire? Insomma, c'è appunto un mio amico psicanalista, un uomo meraviglioso, di grande cervello, che ride di me, me lo dice. Io, e poi, anzi, ti posso dire una cosa che non l'ho mai detta. Durante le riprese, lui che aveva letto la sceneggiatura, rideva, mi diceva qualcosa che non capivo. Dice, poi te lo dirò quando hai finito le riprese. Dico, ma che me vuoi dire? Io dico, ma che sto a fare? Fa qualcosa di anomalo. E non mi voleva dire niente. Finito il film, quando lui ha visto il primo montato, mi ha detto, ma non lo vedi? Ma tua madre è morta 20 anni fa. E tua madre ci sta sempre. È possibile che qualunque cosa fai c'è tua madre? Hai capito che ce l'hai dentro? E io ho detto sì. E lì ci sono rimasto male. Un paio di giorni sono rimasto male, perché insomma dico, pensavo di avere quantomeno pareggiato i conti, invece no, e quindi sta mamma è diventata enorme, io cancellavo però il giorno dopo, hai capito? Non c'è niente da fare. La mamma sa già tutto, notaio. Beh. Con il presente atto da avere a tutti gli effetti di legge, nomina e costituisce quale suo procuratore speciale, il proprio figlio Giovanni Brandani, nato a Roma il 19 febbraio 1949. Residente a Roma, via Licoroso 8, codice fiscale BRN GNN 49B19 H501G, affinché nel nome e per conto di essa mandante compia quanto necessario per obbligarsi a vendere i diritti di comproprietà a lei spettanti sul seguente immobile, sito del Comune di Roma Villa, Quinto Lanzio Flacco 3C, distinta a un nuovo catasto edilizio. Come? Scusi, signor notaio, prego. Forse non ho capito bene, ma che c'entra la vendita con l'assegno di accompagnamento? Infatti niente, signora. Hai collaborato con Matteo Garrone, col quale avevi lavorato in altre vesti. Matteo l'ho conosciuto nel 2000 e mi aveva colpito proprio tantissimo il suo cinema, il suo primo film, quindi l'ho proprio seguito e gli ho fatto l'aiuto in Estate Romana, L'imbalsamatore, Primo amore, e poi in Gomorra ho scritto anche la sceneggiatura. Poi con Matteo mi ha ripreso tanto la voglia proprio di set che avevo fatto sempre da ragazzo, e sono rientrato proprio sul campo, diciamo. E poi Matteo è entrato in questo, che lui è l'unico che ha avuto il coraggio di produrre, perché dicevano le signore anziane, sei pazzo, gli anziani, cosa vuoi fare, il film sui vecchi, no? E non nessuno non lo produceva, invece lui la storia gli piaceva e abbiamo fatto questa domanda, abbiamo ottenuto questo fondo. Voglia di set come da ragazzo, perché un po' sì. Di passato ce l'hai nel cinema, Gianni? Sì, ce l'ho data l'età ormai. Purtroppo sì, nel senso, io ho fatto proprio fin da ragazzo ho cominciato a fare proprio gli aiuti, l'assistenza alla regia, e poi avevo studiato, comunque ho fatto anche degli anni di teatro, ho studiato pure regia in teatro con Alessandro Fersen da ragazzo, poi ho cominciato a lavorare nel cinema e però lentamente sono andato sulla sceneggiatura, ho scritto dei film nell'87, 88, 90, anche se ne scrissi uno che andò anche quello alla settimana della critica nell'88 credo, che era Sembra morto ma è solo svenuto, che era il primo film di Sergio Castellitto, e poi insomma, quindi sceneggiatore. Quando ho conosciuto Matteo mi è piaciuto talmente tanto il suo modo proprio di fare cinema che gli ho cominciato a fare l'aiuto, che era una cosa che avevo interrotto per scrivere, insomma, sostanzialmente per un periodo di almeno 10 anni. Tutti e due. Evviva! Bravo! Cara, grazie. Buon Ferragosto. Buon Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. A me sì. Poco, perché sai che sono... Pochissimo. Un po' so. Pochissimo, non ti preoccupare. Poi mi sbronzo. Allora, in alto i calici alla nostra bella amicizia di Ferragosto. Cin cin, vai Vicky. Viva noi, eh! Viva questo romanzo tanto buono! Tuo rapporto con questa popolarità che ti ha travolto in questo periodo? Questo è incredibile perché non l'ho capito ancora, è una cosa fortissima, perché le persone chiaramente mi riconoscono per strada, perché ho fatto anche l'attore, quindi questo non mi era mai successo. Però sono saluti calorosi, devo dire, quindi mi fa piacere, non cioè devo dire, mi sembra che sono affettuosissime tutte le persone, mi fermano per la strada, ma anche se vado appunto, se sto a Milano, a Roma, insomma, cioè, soprattutto alle signore, chiaramente. E quindi questo sì, è un po' da capire, come non lo so, è bello, penso, ma un po' fa parte del lavoro, quindi io mi aspettavo, essendo appunto uno del vecchio soldato, uno tiene in conto tutto, quindi dico, io ho fatto il mio lavoro, però un po' è strano, è strano veramente, è sorprendente, è una cosa strana. A Voci in Scena con noi oggi Gianni Di Gregorio, l'appuntamento con un nuovo personaggio è per domani. Da Marta Cagnola ancora l'augurio di una buona giornata.